intrecci gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce, il bianco fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Trasparente come me. Oh mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? Trasparente come me. Mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me.